kwaba tuse mindule o mindule tseni e na kebetele temwena biso kaka banjelu bato ya libanda nde bakatili kambo biso to banga magungu teo na kata lipopo mboka to mesene lelo ya saki bolingi tembeo oye koya eya tembe ya kwaba tuse mindule o mindule tseni e Bajelu, batoyali bandande bakatili kambo. Bisato banga mangungu teo, nakachali popo. Mo piato, mo piato, mo piato, mo piato, mo piato.